Lo senti che scorre dentro e lui ti divora lento. Tempo, se ti senti spento è perché hai fatto scempio. Il tempo non è mai abbastanza dentro questa esistenza. Tempo, ogni giorno metto una tacca sul tuo corpo che si fiacca. Tempo, l'orizzonte di senso nel quale si muove l'io penso. Tempo, il senso della vita è che prima o poi è finita. Tempo, esiste davvero o è solo frutto del pensiero? Tempo, quello dell'orologio cronometrico, quello storico epico. Tempo, la musica lo batte ma in fondo lui se ne sbatte. Tempo, un problema per tutti che viene risolto dai lutti. Tempo, lo senti che scorre dentro e lui ti divora lento. Tempo, è un cane rabbioso, ti insegue senza riposo. È il tempo, il senso dell'esistenza e che non puoi fare senza. Il tempo, se ti senti spento è perché hai fatto scempio. È il tempo, sei ancora qua allora vuoi un'altra verità. Sul tempo, lo sai che lo stai perdendo mentre mi stai ascoltando. Tempo, se il tuo cervello non è più spento allora ha raggiunto il mio intento. Attento a questo momento per come ti lascia sgomento. Tempo, guarda sulla lancetta il prossimo secondo che ti aspetta. Dentro un altro battito ancora t'avvicina la tua ora. Sento ogni singolo minuto che scivola giù come l'olio in un imbuto. È un vento che spazza via i viadotti di concetti edificati dai dotti. Tempo, lo senti che scorre dentro e lui ti divora lento. Tempo, è un cane rabbioso, ti insegue senza riposo. È il tempo, il senso dell'esistenza e che non puoi fare senza. Il tempo, se ti senti spento è perché hai fatto scempio. È il tempo, la finitezza trasforma tutto in monnezza. Tempo, se fosse solo denaro avrebbe un gusto più amaro. E gioia, dolore, attesa, sorpresa, pazienza e colore. Senza niente avrebbe un sapore, niente avrebbe un valore. Senza tempo, te ne serve tanto se vuoi andare oltre la contro di menzogne che puzza come una catasta di carogne. Mentre tutto se ne va a puzzare non riesci ad aggirare la fame che senti. E anche se diventi immortale sarà l'eterno ritorno dell'uguale che te la farà prender male. Tempo, lo senti che scorre dentro e lui ti divora lento. Tempo, è un cane rabbioso, ti insegue senza riposo. È il tempo, il senso dell'esistenza e che non puoi fare senza. Il tempo, se ti senti spento è perché hai fatto scempio. È il tempo, è il